Italia in controluce. La legge 40 sulla fecondazione artificiale finisce per la quinta volta alla Corte Costituzionale, l'avete sentito anche nei nostri GR. Pezzo pezzo la legge viene smontata e sentiremo fra pochissimo cosa resta ormai di questo provvedimento così contestato e che riguarda sempre più persone, un numero sempre maggiore di coppie. Proprio ieri è stato presentato il rapporto della Commissione d'inchiesta sugli errori sanitari. Le donne che si sono sottoposte a fecondazione assistita in Italia dal 1 gennaio 2011 al 30 giugno 2012 sono 50.900, davvero un bel numero, e un quarto di loro ha dovuto compiere un viaggio della speranza, cioè ha dovuto andare fuori regione per ottenere un trattamento che sarebbero tenute ad avere anche a casa propria. Raffaella Calandra ha sentito proprio su questo Melania Rizzoli della commissione d'inchiesta, sentiamo. La maggior parte delle donne che ricorrono alla procreazione medicalmente assistita si sposta dal centro verso il nord nelle regioni in cui questa tecnica funziona meglio e dà maggiori garanzie, anche se non mancano i centri nel centro Italia e nel sud. È in grandissimo aumento il ricorso a questa tecnica da parte delle donne, l'età media è 36 anni, i centri nel sud Italia sono di meno e quindi sono più affollati. Le regioni in cui si ricorre di più a questa tecnica sono il Piemonte e la Lombardia. Noi vorremmo omogeneizzare questa tecnica per permettere a tutte le donne di poter avere una gravidanza. Non molto tempo fa una pronuncia del Tribunale ha stabilito l'obbligo anche per i centri pubblici di far fronte alla necessità di alcune coppie di avere anche una diagnosi preimpianto. La vostra analisi contempla anche la necessità di questi centri pubblici di adeguarsi anche alle indicazioni nuove che dalle varie pronunce giudiziarie sono arrivate? Speriamo di avere il tempo, in questa legislatura ci stiamo già attivando per monitorare questo problema. Avete qualche stima anche sulle emigrazioni dall'Italia verso l'estero per quanto riguarda soprattutto l'eterologa? Non abbiamo dei dati precisi, ma li avremo in breve tempo perché è una richiesta che già abbiamo fatto. Ma avete un trend, nel senso vi risulta in aumento? Sicuramente sì, in aumento. Si va dunque soprattutto nel nord Italia, in testa alla classifica alla Toscana, dove la fecondazione assistita viene assicurata nelle strutture pubbliche, mentre al sud sono soprattutto private. Un esempio su tutti, in Sicilia su ben 36 centri, 7 sono pubblici, 29 privati. Ma torniamo al caso di ieri, al quinto ricorso alla consulta. Raffaella Calandra qui accanto a me. Allora, in questo caso cosa viene contestato? In questo caso, cioè in quest'ultimo ricorso, viene contestata l'utilizzo degli embrioni alla ricerca, per dirla in parole chiare. In realtà, in termini diciamo giudiziari, è un confronto tra diritti su cui si dovrà pronunciare la consulta. Prima c'era stato quello sul divieto di impiantare massimo 3 embrioni, ma a breve ci sarà ancora un altro ricorso sulla fecondazione eterologa. Come dicevi, per già 5 volte la legge 40 sulla fecondazione assistita è arrivata davanti ai giudici della Corte Costituzionale e molte di più, 19, da Cagliari a Salerno, sono state invece le pronunce dei giudici civili sulle più varie questioni di questa delicata norma, bocciata pure dalla Corte di Strasburgo, contro cui il governo italiano ha fatto ricorso. Una delle ultime sentenze del Tribunale di Cagliari, come anticipavamo già, stabilisce l'obbligo dei centri pubblici di attrezzarsi per garantire la diagnosi preimpianto, una battaglia vinta da una coppia sarda portatrice di talassemia. Abbiamo raggiunto la futura mamma. Nel momento in cui ci siamo sposate abbiamo deciso di mettere su famiglia. Nel momento in cui abbiamo scoperto che non potevamo accedere alla diagnosi preimpianto nell'ospedale, abbiamo cercato su internet qualche informazione per poter uscire fuori da questa situazione, perché noi non potevamo permetterci di andare all'estero, non ci potevamo permettere i tentativi cosiddetti, perché ogni tentativo costa tantissimo, come lei saprà. Certo. 9-10 mila euro a tentativo. Questo tipo di problematica crea sempre tante polemiche. Non ho mai capito perché le persone non si calino nei confronti delle persone che hanno questo problema e provino a capire. Non è una questione di avere il figlio sano, è la questione di proteggerlo da quello che si conosce e che è brutto. Ecco, torna il tema del costo eccessivo che molte famiglie non possono permettersi, torna il tema della necessità, anzi dell'obbligo per molte coppie di andare all'estero, comunque in un'altra regione, sostenendo quindi costi molto alti. L'abbiamo sentito nella voce di questa futura mamma sarda. Ma cosa resta dunque di questa benedetta legge 40, come sentivamo, smontata in molte sue parti, Raffaella? In realtà a questo punto, diciamo, resta poco rispetto all'impianto iniziale della legge. Restano in sostanza due paletti cardine rispetto alla norma del 2004: il divieto alla fecondazione eterologa e quello all'uso di alcuni embrioni per la ricerca, punto quest'ultimo appunto appena portato all'attenzione della Consulta proprio dalla parte della stessa coppia milanese che ha fatto cadere quel divieto all'impianto soltanto di 3 embrioni. La mia è una battaglia di civiltà, spiega la signora, una battaglia che sicuramente è abbracciata da chi lavora anche all'interno del mondo della ricerca e che ora, proprio considerando come questa legge sia stata modificata e riscritta nel corso degli anni e da diverse pronunce giudiziarie, ora solleciterebbe anche una riscrittura della norma proprio per evitare queste discriminazioni di cui parlavamo. Così, ad esempio, dice la professoressa Elisabetta Cerbai, che è docente di farmacologia all'Università di Firenze. Non è ammissibile una posizione ideologica come quella che si è avuta in questi anni contro la ricerca che utilizza cellule staminali embrionali umane, che si sono rivelate uno strumento formidabile. Malattie anche tipo il Parkinson. Tutte le malattie che portano a degenerazione cellulare del sistema nervoso centrale, come l'Alzheimer, per esempio, ma il diabete giovanile. In altri paesi europei è possibile utilizzare gli embrioni abbandonati, che in Italia oltretutto sono 3.400. La nazione che è più avanzata a questo punto di vista è senz'altro l'Inghilterra, insieme a, per certi aspetti, gli Stati Uniti e Israele sono, e naturalmente poi alcuni paesi anche asiatici, sono quelli che danno maggiori possibilità. A livello europeo la Germania ha notevoli restrizioni, la Spagna per esempio è un paese che ha una legislazione da questo punto di vista più aperta rispetto alla nostra. In questo momento di questa legge restano di fatto sostanzialmente due divieti, quello proprio ad utilizzare gli embrioni per la ricerca e quello all'eterologa, giusto? Sì, io penso che sia stata una legge maturata frettolosamente nel Parlamento, che si sia dimostrata incapace di rispondere ai bisogni della ricerca da una parte e di salute del cittadino dall'altra. È stata giustamente sottoposta a un referendum che però non ha saputo informare in maniera compiuta e corretta i cittadini che cosa significava non andare a votare contro quella legge. Quindi è una legge che a questo punto è stravolta rispetto all'impostazione iniziale? Certo, questa sta rivelando un fattore incredibile di discriminazione tra ceti più abbienti e ceti meno abbienti per quello che riguarda la capacità di ricorrere ad alcune cure. Un Parlamento consapevole dovrebbe pensare realmente di cambiare profondamente l'impostazione. Quindi va riscritta? Sì. Una legge dunque che va riscritta, questa sulla fecondazione assistita. Grazie a Raffaella Calandra per aver realizzato questo approfondimento. In regia Gianmarco Ferronato. Italia in Controluce torna domani alle 13.30.